Chi è là? Chi è là? Buonasera. Franco da Sofs. Ciao Franco, Carlo da Questa. Come va in quelle coordinate? Bene, ciao Carlo, ben ascoltato. Stavo attaccando questa radio a vedere se funzionava, invece funziona ancora. Funziona bene qua, mi arrivi Santiago 8, Radio 5, mi arrivi molto molto bene Franco. Sto usando un President Lincoln con l'MB5. Ho capito, anche io sto provando questo microfono MB+4, ovviamente con questa radio non è che renda più di tanto, però come microfono normale, diciamo, un pochettino più comodo da usare in casa. Ma io ti ascolto bene, la modulazione è per me è perfetta, so che dovrebbe dare di più MB+4. Sì, però praticamente forse con questa radio non è molto compatibile, perché questa è una radio che nei pin di uscita al microfono ha una piccola alimentazione che serve per i microfoni, quelli che hanno la ceramichina e una sorta di scheda electret, capito? E quindi ho dovuto variare il collegamento a 4, praticamente usando uno spinotto da 6 pin, però ne ho utilizzato solo 4, capito? I contatti li ho fatti giusti, però anche ieri ho fatto delle prove. Claudio mi ha detto che praticamente se vado da 2 a 10 non cambia niente, non si sente la preamplificazione, capito? Sì. Aspetta che ti attacco l'MV+4. Può fare un passaggio. Con l'altro andavi molto meglio, se vuoi essere sincero. Non so come sia regolata lì la preamplificazione. No, aspetta che non l'avevo parlato io, c'è qualcuno da fuori, quello lì. Questa è la mia modulazione delle mie tutti qua. Ok, sì, questo va bene Franco. È forte la modulazione? Sì, è chiara, bella, capito. Questa è la mia tutti qua, vedi, passo, si sente lì. Quanto ce l'hai il regolatore, a 10 al massimo? Dovrebbe aumentare la amplificazione, vedi, adesso me ne sono accorto anche io, perché qua l'amplificazione non stava andando fino a 3. Ok, io qua sono al massimo, capito, a 10, però al limite dopo faccio una prova io partendo da 2 e salendo a vedere se cambia qualcosa. Questo ha cambiato, hai sentito? Sì, adesso è più forte. Questo è l'MB+4, e poco qua stavo usando l'MB+5, quello là è l'MB+5 numero 1, non è mai stato più qua. Mentre questo è stata cambiata la cosa. Ho capito, anche questo è nuovo, questo me l'ha dato Eugenio, l'ho preso da lui, praticamente era senza lo spinotto, capito? Però non ha subito nessuna modifica, è nuovo, capito? Solo ho fatto il collegamento io con lo spinotto nuovo, però non ho toccato nient'altro. Sì. Ma se te l'ha detto Claudio che lo stava andando, vuol dire che è giusto. Perché con l'amplificazione basta. Sì, qua ce l'ho a manetta, capito, e non va. Adesso provo ad abbassarla mentre sto parlando, vedi, la sto abbassando. Adesso l'ho portata a 2, com'è il segnale? Non ha cambiato niente. Guarda, sempre parlando lo sto aumentando da 2 a 10. Nulla, non ho aumentato niente. Infatti Claudio mi ha detto prova ieri a cambiare la batteria, cosa che ho fatto, ho preso una batteria da 9 volt, nuova dal negozio, messa, e ha ragione lui, non cambia niente. Qualcuno mi ha detto sì, cambia, non so, magari forse in locale magari si percepisce qualcosa. Come microfono normale va bene, però a questo punto diciamo lo sto usando per questioni di praticità, capito? Sì. No, non aumenta, rimane sempre allo stesso stato. Sì, quindi confermi anche tu ciò che mi ha detto Claudio. Sì. Vedi a vedere, tu qua mi hai detto che è arrivato 8, mi sembra una cosa del genere. vedi a vedere così, a vedere com'è la situazione, si è cambiato. Vedi? Sì, praticamente ho sentito uno stacco ed è aumentato di, diciamo, di potenza. A mo' morto ti arriva adesso. Quanto arrivo adesso lì? Adesso è Santiago 9, mi arrivi qua, Santiago 9. Cazzo, già tirato. Prima era 8, così. Sì, ascolta, invece il mio segnale com'è lì a Sorso? Tu sei quasi 9, non arrivi tutto giusto, un pelino a 9. Ok, già va bene, sto uscendo solo con i watt della radio, ho capito, quindi va benissimo. Capo, no, questo erano stati abbassati, ma li abbasso io dal manopolino, che sono cose per posso abbassare e aumentare. Guarda adesso che anche io aumento anche un pochino, come ti arriva il segnale adesso, l'ho messo al massimo. No, ma adesso è più basso, perché? Più basso, eppure sto uscendo con più watt. Poco fa eri un pelino a 9, adesso eri 8. Guarda adesso come va. È 8, sì. Se mi dai un attimo provo a mettere il microfono suo, quello originale. Dammi giusto il tempo di svitare questo e avvitare l'altro, e così vediamo un po' anche il confronto del microfono. A questo punto mi tengo quello originale, se poi esco meglio. Capo, magari è il microfono che non finge, non va. Buonasera, chi è? Ok, ciao Giovanni, buonasera, mi hanno ascoltato. Ma sei in macchina, sì. Capo, no, ho detto, se sei in macchina o a casa, come mai ti arrivano così bassi? E allora è stanco, come gli aranci, devi stare attento su quelle cose, lì se non ho una protezione ripartono subito. Adesso come mi senti, Fra? Sempre segnale 8. Sempre 8, capito, sempre 8-8. La radio come? Adesso ho cambiato microfono. La radio è bassa lo stesso questa, perché è originale. E questo è quello originale. Guarda se cambia adesso, sempre lo stesso segnale. No, si è abbassato a 7. Ok, quindi già sta andando, diciamo, la regolazione dei watt. Adesso sono col massimo dei watt della radio, dovrebbero essere 5 o 4, insomma, quelli originali. Capo, va bene. Guarda che c'è Giovanni da Platamona. No, Giovanni, però non ti sento, forse sei in macchina, magari in qualche zona dove non esci bene. Non ti sente, no, Giovanni. Sei basso, Giovanni, una cosa strana. Oppure da casa dovrebbe arrivare più forte, hai messo l'antenna, ho sentito. Metti l'altro, ma se non va c'è poco da piacere. Niente, aspetta un minuto qua che cambio radio. Chiafra, già sono qua io. Ok, Carlo. Sì, adesso hai migliorato, che la radio nuova hai messo. Nuova non ne ho neanche una. Tutte vecchie, questa c'ha almeno 30 anni. Ma questa è molto meglio dell'altra, eh? Questa è K. Questa è una bomba, capito? Una bomba. La radio ancora più bella, chiara, capito? Il segnale è sempre uguale, Fra. Sei a 9 qua. K, sì, ancora è freddo anche. Sta uscendo 10, neanche 15 watt, là. Capito. Ti posso chiedere una cortesia? Guardami adesso i watt e poi se puoi passare in FM a vedere se aumenta un pochettino. Sì, adesso sei 8, sì. Vedi, qua ti vedo più bene perché c'ho l'ago dello smitter. Là c'avevo la... era digitale. Ok. Guarda, adesso passiamo in FM, giusto un controllo e poi torniamo subito in AM. Ok, va bene. L'ha detto Franco, se mi ascolti, adesso sto uscendo in FM. Ok, va bene, se ne ripassiamo in AM, dai, così magari c'è qualcun altro che vuole entrare, ripassiamo in AM. Ok. Ok, grazie Fra. No, è che volevo conferma se è tutto a posto, sai come cambi microfoni, questa radio è un pochettino sensibile al cambio di altri microfoni, capito? E ho detto non vorrei che mi abbia incasinato qualcosa, però siccome questa radio praticamente in AM da 4, in FM e in SSB da qualcosina in più, capito? Perché c'è anche l'SSB e quindi vuol dire che già sta andando tutto a posto, dai. No, va bene, io abbastanza. Forse non tutti così, avere una radio così. Bene, allora mi tengo l'originale e questo ZGMB+4 me lo tengo come microfono di riserva, capito? Nel caso mi possa servire o per altre per altri usi, insomma. Già è, perché nuovo, capito? Ormai l'ho collegato, ci ho messo lo spinottino, ho fatto i giusti contatti, già va bene, si sente come microfono normale, però di preamplificazione non ne dà niente. Fatelo controllare da qualcuno che lo sa, te lo fai controllare, perché l'amplificazione la dovrebbe avere per forza. C'è qualcosa che non va. Vabbè, adesso con calma, qualcuno mi ha detto di fare qualche piccola variazione, capito? Però io microfoni non ne ho mai toccato, ho fatto giusto questo collegamento, vedendo un po' bene la scheda sia della radio che poi la colorazione dei fili del microfono, li ho collegati giusti, sì, funziona perfettamente in trasmissione e in ricezione, ovviamente mi esclude il tasto up down dell'altro microfono, capite? Quindi questo non ce l'ha e devi cambiare dalla manopolina poi i canali, invece con quell'originale c'ho i tastini sul microfono, capito? Per salire e scendere di canali. Sì, ma non, quei punti non farli neanche, io ce li avevo uno fatto quei punti, ma a chi piaceva la modulazione forte, a chi non piaceva, e allora ho preso, l'ho staccato i punti e l'ho lasciato originale. Va bene, Carlo, io ti devo lasciare, devo uscire, alle 4 devo uscire. Ci sentiamo, dai, buon proseguo, buon tutto, ci ascoltiamo, magari più tardi. Ciao anche a Giovanni, se lo ascolto, ce ne ascoltiamo. Avanti a te Carlo. Ciao Fra, non ci sono problemi, vai pure, io rimango lo stesso in ascolto, sono a casa facendo qualche cosa. Ci sentiamo, grazie del piccolo QSO, grazie dei controlli, alle prossime quando voi siamo qua. Giovanni, prova a fare un altro passaggio se ci sei ancora per i saluti finali a Franco. Vedi che adesso arrivi forte, 9.5 e la radio per la bacina, non stai usando un altro microfono. Ciao, più tardi. Giovanni, adesso ti ho sentito, come hai fatto l'altro passaggio sono riuscito a sentirti bene, capito? Forse l'altra è la radio che non sta andando bene, capito? Comunque con questa, cioè il segnale guadagna parecchio, però hai la radio ancora bassa, quindi non so se è il microfono che ha qualcosina, vedi un po' di se riesci a far qualcosina per migliorare anche di radio, oltre che di segnale è accettabile, capito? Il segnale adesso 6, 7, 8, capito? E va bene, però la radio è sempre bassa, anche se col guadagno del segnale riesco a tirarti fuori bene adesso. Adesso diciamo il mic va un pochettino meglio, capito? Prima eri più basso, ho capito, sei sempre a Platamona a casa adesso, vero Giovanni? Sì, ho capito. Io niente, mica stavo facendo qualche provina con un altro microfono, adesso ho rimesso quello originale della radio, capito? E il segnale mio come ti arriva lì a Platamona? Ok, non fa niente Giovanni. Io mi sono qua in cucina sul tavolo, mi ho fatto una specie di mini laboratorio che stavo ultimando delle cose da mettere a posto, devo fare ancora due collegamenti e poi ho finito, ma devo saldare, quindi mi trasferisco giù in garage, quindi adesso rimango un pochettino in ascolto, poi scendo scendo giù, magari ci sentiamo più tardi, Giova. Sì, Giova, meglio così. Va benissimo, dai. Comunque, per quanto riguarda la tua antenna, hai migliorato di segnale. Se riesci a trovare un po' un assestamento delle burne, non so, del microfono, eccetera, sicuramente andrai anche molto meglio, capito? Perché Platamona, diciamo, già aperta come zona. Piano piano, hai visto? Franco da Sorso qua mi arriva Santiago 9, capito? E anche di radio arriva molto bene, ma anche Porto Torres, insomma, già si sentono bene, capito? Sicuramente se riesci a sollevarla anche un pochettino, e vedrai che anche tu puoi già riuscire a ottenere buoni risultati. Sempre piano piano, senza fretta, con le dovute cautele, insomma, è tutto quello che ne concerne. Vabbè, Giova, rimango un po' in ascolto, poi mi sposto un attimo, ci sentiamo più tardi nel caso. Ciao, ciao. Santiago 9, Lupo. Sì, ben sentito, Nicola. Marco da questa parte. Segnale 9, sei a casa, interrogativo. Ehi, AK, novità per antenne esterne, negativo? Per antenne esterne, novità o niente, è tutto fermo? Ottimo, ottimo, dai. Almeno riesci a coprire Sassari, non solo, dai. Sì, mantieni la stessa posizione, la stessa identica posizione dell'antenna di adesso. Prova un po', vai. 8, segnale 8. Smittera, LED, cristalli liquidi, però è 8. Mi dispiace. Forse queste lunghe rendono meglio all'aperto. Prego. 9, sempre 9. Conta che questo smittere a LED, quindi 9. Qual è la flex per caso? La Albrecht CB Flex? Poi ripeto, sì, la conosco quell'antenna lì, è valida, naturalmente rende meglio all'aperto, cioè al chiuso più di tanto non... Sette volte è anche controproducente. Nicola, tutto bene la modulazione mia? Vedi un po' se c'è qualsiasi tipo di distorsione? Sì, non so se ci sia qualcun altro all'ascolto che possa avere un controllo più in distanza. Vediamo un po', canale 10, chi c'è all'ascolto? Carlo da questa parte. Ciao Carlo, segnale fondo scala, tu sei il vicino, tu sei via degli astronauti, io via Le Trento. Più che altro faccio ascolto, però ti ho copiato già e sei tra i più forti segnali, più vicino a me persino di Roberto, credo. Carlo, guarda se copi l'amico Nicola, Lupo Grigio, è da dentro casa con un antennino e un portatile. Avanti Nicola per Carlo. Lo sento Nicola, però è proprio al limite col QRM, basso basso, mi arriva qua Santiago 6, ma la radio molto molto bassa, faccio fatica a capirlo. Io con Nicola ci ho modulato forse qualche settimana fa con un portatile, più o meno zona Viale San Francesco, quella zona lì, e mi arrivava molto molto meglio. Mi ha detto che modulava con un portatilino che aveva problemi per quanto riguarda l'antenna esterna, niente, però lo sento, lo sento pio pio, ma già lo sento. Sì, via Nizza per l'esattezza, Nicola, via Nizza. Forse tu lo senti meglio, magari se sei in Viale Trento riesci a sentirlo meglio, capito? Però se ha l'antenna interna, diciamo che è ovvio che non esce bene, capito? Sì, sì, sì, purtroppo Nico ti copia così basso, certe volte non capisci anche se magari se stai parlando. Sì, qua arriva un 8 oscillante 9, ecco, diciamo, tra 8 e 9. Lui è circondato dai palazzi, peraltro, Nicola quando modula è, credo, un po' in basso, è circondato da palazzoni, quindi il segnale fa veramente fatica a uscire da lì. Va bene, ok, io rimango in QRX. Nicola, se hai altre prove da fare o ci spostiamo, limite, non vorrei che se si forma una ruota non voglio occupare il canale. Bene, bene, bene, bene. Nicola, come mi copi tu di modulazione? Solo la modulazione, l'unica che mi interessa. Sto usando un, come si chiama? McKinley President. Baracchino normale, microfono normale, tutto di serie. No, a Carlo. Dicevi a me, sì, no, qua mi arrivi fondo scala, quindi anch'io ho il display LED fondo scala, quindi 9 più 30, tranquillo, tranquillo, la radio è ottima, io ti sento benissimo. Sì, sì, no, il segnale, non... l'importante è che sia limpida la modulazione, che non abbia distorsioni, eccetera. No, perché c'avevo gli apparecchi fermi da tanti mesi, io un bel po' che non entro. Causa calo di passione, però le radio lasciale ferme certe volte si sciabideggiano, come si dice a Sassari, tendono un po' a rovinarsi, eccetera. Però qua le ho provate tutte e credo che vada tutto bene. Bene, Nicola, riprendi. Prova un po', anche se lì purtroppo miracoli non se ne possono fare, Nico, avevi fatto un po' tutte le prove, addirittura avevi provato una boomerang mi pare, però da lì il segnale fatica a uscire. Ti copio, forse io sono quello che ti copia meglio, sempre tra l'8 e il 9 e sono più vicino a te, gira gira. L'antenna dovrebbe quasi vedere otticamente la tua zona, per quanto tu poi sia in basso, in mezzo ai muri, ai palazzi. Nicola, adesso hai guadagnato di segnale, se mi arrivi qua a Santiago 8 e la radio adesso è 3, capito? Adesso ti ascolto molto molto meglio, capito Nicola? Sì sì, adesso se ti sei spostato nel Poggiolo sicuramente esci meglio. Niente, mi avevi, se non sbaglio, detto che avete i lavori nel condominio, per cui non hai adesso la possibilità di sistemarti un'antenna sopra sul tetto, però se riesci a sistemarla anche provvisoriamente sul Poggiolo dovresti riuscire a coprire tutto Sassari. Sì, ho capito, forse c'è qualcuno sotto che cerca di entrare. Avanti sul 10. Ciao Giovanni, come ti va da quelle parti? Vento c'è, io non sono neanche uscito, ho finito il turno di notte stamattina e niente, sono rintanato a casa. Dovrò uscire tra una mezz'ora circa a fare qualche commissione e poi però rientro, non ho voglia di stare molto in giro, capito? No, negativo, perché non ho avuto tempo, però adesso come inizia la primavera, qualche bella giornata la trovo e sicuramente mi sistemo tutto. Sì, l'apparecchietto l'ho preso, ma lo devo cablare bene, sistemare, dopodiché lo userò in macchina. Sono in compagnia di Nicola che modula da Sassari, zona Viale San Francesco, via Nizza, quella zona là, e poi Marco, se non sbaglio, Viale Trento. No, io via Nizza, Nicola Viale San Francesco mi pare. Giovanni, mi copi? Mi copi da Platamona? Il segnale tuo è quasi sempre quello, 5,5, una media di 5,5. Vieni avanti. Ha parlato? Sì, l'hai sentito, ti ha risposto Giovanni da Platamona. Giova, fai un passaggio più lungo e rispondi. Sì, sì, copiato. No, avevo l'autosquelch che praticamente mi chiude a tratti i segnali più bassi. Allora l'ho eliminato, ho messo lo squelch al minimo. Adesso mi è arrivato, sì, 5,5, più o meno siamo lì. La modulazione, diciamo, rapportata al segnale potrebbe essere un tantino meglio. Vai Giovanni. Sì, sì, comunque è capibile. Però qua vedo delle cose sullo Smitter strane, aspetta Carlo, riprendi. Ah, ecco qual è l'inghippo, riprendi Carlo. Sì, Giova. Comunque sì, hai guadagnato e migliorato notevolmente con l'antenna esterna, anche se quando avrai il tempo e insomma la voglia ti consiglio di portarla un po' su più in alto, e poi niente, un piccolo aiuto magari non guasta, capito, alla radio, così magari qua, dovresti, da quella zona dovresti arrivare benissimo. Non so se ti senta Nicola da Viale San Francesco. Avanti Nicola, se senti Giovanni che modula da zona Platamona. Nicola c'è sceso. Carlo, mi ero dimenticato che c'era qualcosina in più qua. Adesso sono con 3-4 watt. Dai 3 ai 4, non so perché non ho lo strumento. Adesso sono nudo e crudo. Guarda, qua mi arrivi sempre fondo scala, capito. Che antenna esterna stai usando? Allora, io sto usando una Energy 5 ottavi. quella con tre radiali da 1,30 m, un'antenna abbastanza economica, però ce l'ho su 8 anni e nonostante sia sottile, nonostante i ventacci, il maestrale che qua arriva a bomba, vedo che ancora tiene. L'ho tenuta bassa per non avere problemi, per adesso va, per adesso va. L'apparato te l'ho detto, tu che apparato utilizzavi? Mi pare un CRT, una volta l'avevo sentito di sfuggita, cos'era, un 7009 o un 9009? Il mio è un Albrecht AE5890 e ha la MFM SSB, capito? E esce con i watt della radio, capito? Non ho niente adesso. Ah, allora non eri tu, ecco, un'altra persona era. Sì, sì, lo conosco, io ho avuto il precedente al tuo, il gemello, però la versione precedente era il 5008 mi pare. Aveva avuto un piccolo problemino, l'avevo dato a una persona di Alghero che poi aveva scoperto che era una fesseria da riparare. Sì, era proprio un trimmer bruciato e l'ha riparato con poco, con niente anzi. Ok, quindi conosco l'apparecchio. Sì, sì, vabbè, segna la fondoscala. Vediamo se è rientrato Nicola. Nicola? Probabilmente non mi copierà più a Platamona con 3-4 watt di serie. Giovanni, mi copi? Sono liscio. Giovanni è sceso a segnale 3, non so perché, magari ha staccato qualcosa e è sceso a 3. Ok, detto ciò, io stacco, faccio qualcosina qua in casa, riprendi Carlo, piacere di avervi copiato, Nicola, Carlo e Giovanni. E quindi lascio acceso il Quadrix, ma mi dedico a faccende casalinghe. Ok, riprendi Carlo, buona serata a tutti. Va benissimo, ok, anche io riprendo e poi chiudo perché devo uscire per qualche commissione, magari poi ci sentiamo più tardi. Saluto Giovanni e Nicola, ci sentiamo alle prossime, magari speriamo in condizioni migliori. Ciao Giovanni, ciao Nicola e ciao Marco, alle prossime. Natalino, noi siamo sull'altra. C'è qualcuno sul 10? Paolo il caldo. Ai, Macolino. Trovo si fuori. Mimia Cristiane. Vabbè ragazzi, come va? Sta va. Chi c'è il canale? Avanti Roberto. Buonasera a tutti. Buonasera Carlo da Questa. Mi sa che c'era Roberto che voleva entrare. Ci siamo, io, tu Roberto, poi Natalino, poi chi c'è di altri? sera, Natalino, non lo so chi c'è di altri perché ero un attimo fuori, era accesa, però sentivo, avevo abbassato il volume, quindi non so chi ci sia. Robbe, Natalino, però non c'è nessuno, sono tutti andati via. Tutti spariti sono. Oh, Antonello. Alleluia, ci sono. Vedi, da tanto che non entravi, non ti avevo più sentito. Come stai, Antonè? Bene, a parte questo, aspetta. C'è un po' di stato mal di pancia. La crampa stamattina mi sono alzato. Capito? Mi sono preso la pastiglia per l'aria. La sedietta a finocchietto. E intanto vado in bagno, qualche pezzo se l'ho tolto fuori. Aria mala a fora. Lo so. Avanti l'altro che ha parlato, che non ho capito chi era, c'era il televisore acceso. Sparito. E tu cosa stai combinando? Ogni tanto facendo qualche piccolo esperimento, ho provato l'MB più 4, mi sono attentato e ho trovato i collegamenti come andavano fatti con lo spinottino, ho saldato tutto quanto, e diciamo che i contatti e i collegamenti vanno bene, ma con questa radio praticamente il microfono non preamplifica niente, per cui a questo punto per averlo così come microfono normale funziona, si sente anche bene, ma non ha l'effetto di preamplificazione, non c'era, quindi l'ho scollegato e adesso ho il microfono originale, capito? Quei baracchini lì, ce l'ho anche uno io di quei baracchini così piccolino, ci ho messo il DM1000, ci ho messo, non è che amplifichi così tanto, però qualche cosettina ha migliorato, meglio del microfono normale già era, che sembrava la voce dell'orco, sembrava, non si capiva la civetta, tutto così era, il microfono suo originale, la radio ha messo il DM1000 e quel baracchino ce l'ha un amico mio in macchina, con la mantella magnetica, lo usa lui, e tu usa lui, gli ho detto che se no a me mi viene nervoso, ce lo butto dentro dalla finestra, e lo sta usando lui la magnetica. E ho capito, non lo so, poi stasera io ero entrato, c'era qualcuno, poi sono dovuto uscire a fare commissioni e sono rientrato adesso. Poi niente, Antone, per la macchina ho preso qualche cosina per vedere se riesco a spingere di più, però dovrò fare collegare il tutto direttamente alla batteria, capito? E quindi mi dovrò appentare come trovo qualche bella giornata e quando ho il tempo libero lo faccio. Devi trovare un foro che vada all'interno della macchina al cofano interno che c'hai dove c'è il motore. Ci dovrebbe essere sotto il tappettino qualche tappo di plastica, via che lo togli, ti prendi una cosa in acciaio per poter cercare un altro foro, perché se lo fai con un cappetto così, siccome ti rimane doppio il coso, capito? Scenderebbe all'interno, quindi ci vorrebbe uno stilo d'acciaio, qualcosa che sia fine, ma rigido, capito? Già c'ho un po' di sondini per impianti elettrici, capito? Con quelli penso di riuscire, ne ho di sottili, di più grossi, di diversi diametri, quindi con quelli penso di riuscire a passare, capito? E forse riesco a passare i due cavi, capito? In parallelo con tutti gli altri cavi che poi sono collegati alle varie centraline, capito? Magari se c'è qualche spazio riesco a metterli lì e poi mi passo tutto sotto la moquette in maniera tale che non si veda niente. Puoi fare anche così, devi seguire i cavi dei fusibili e ce lo fai entrare direttamente da lì, se c'è un po' di qualche spazietto metti un cavo rosso e nero e glielo passi sopra al cavo originale, quello che fa i fusibili. Sì, non credo di impiegarci poi tanto tempo, e più che altro potuto organizzare, no, perché di cavo già ne ho, di quello rosso e nero ne ho di diversi diametri, ne ho da 1,5, ne ho addirittura anche di più grosso, e vedo un po' quello che passa, appena ho il tempo di farlo scendo giù, mi metto e mi sistemo, mi faccio prima quell'impianto lì in maniera tale che, e poi mi faccio anche uno stacco rapido, capito? Mi passo i cavi con uno spinottino e ci metto anche un fusibile, capito, da 10 ampere, qualcosa del genere, e niente, poi nel caso volessi staccarlo, capito, uno sgancio rapido, penso di trovare qualcosa del genere alla GBC, oppure devo guardare giù in garage se ho qualche vecchio attacco, capito, in maniera tale che sia pratico anche nel caso volessi staccare tutto. Ho capito. E lui può fare così. Direttamente ci mette due barare. Non so né maschio e femmina, e fai prima. Della cosa migliore, gli sganci. Sentito Giovanni che ti ha chiamato, Antone? No, non arriva per niente oggi. Guarda che magari c'è lo squelch sopra il livello del QRM, abbassalo un pochettino che ti faccio risalutare. C'è un segnale uno di QRM io, lo squelch mi ha coinserito, figurati. Però va Giovanni, non ti sento, l'altro giorno ti ho sentito quando c'era Franco, oggi proprio nulla. Come ha detto che ti sente bene, senti i rumori della ventola sicuramente, rumori di fondo diceva. Qua mi arriva Santiago 7, capito, e la radio è bassina, però mi arriva bene, Antone. Però che proprio nulla, tu sei più favorevole per lui, io sono coperto dai palazzoni che ci sono qui a fianco a me. Se non c'erano stati questi due palazzi alti fino ad arrivare al quadrato, avrei avuto campo libero anch'io. Invece, siccome il palo dell'antenna mia è bassa, non lo voglio manco sollevare perché voglio dormire tranquillo la notte. Non vorrei che sentire gling gling gling gling e poi bolu tutto in terra. Mia a queste folate di vento dei giorni scorsi l'ha passata liscia, dai. La mia è molto in alto, capito? È anche alta l'antenna e spero che ci duri parecchio lì su. Quello sì. E purtroppo con questo vento qui a 120 km orari non ti puoi manco fidare. Io ho l'antenna agganciata con due gaffette di quelle fini, distanti 5 cm l'una dall'altra, mi ha agganciato alla staffa della parabola. Adesso quando migliora il tempo ad aprire deve venire un amico mio a farmi fuori nuovi, e così quel pallolino lo tolgo e lo cambio, capito? E ci metterò un pallo telescopico, adesso vediamo un po', perché lui mi ha detto vorrei installare un pallo telescopico di quelli tubi d'acqua da 3 metri, così ci posso lavorare tranquillo, poi di quello zingato, quando devo scendere l'antenna scendo alla base del tetto, basta che mollo il primo palo, l'abbasso un po' di più, mollo che ci arrivo a mano, dopodiché una volta che mi è arrivata l'antenna, come ti posso dire, alla pancia, diciamo là, ci lavoro benissimo, almeno 2 metri in più riesco ad averli. Sicuramente sì, se tu praticamente da dove sei in una buona posizione, se sollevi appena appena senza esagerare penso che guadagnerai parecchio, capito? Perché come radio già esci bene, già ne hai di roba sotto, però se sollevi appena appena magari riesci a passare anche tutti quei palazzi che dicevi prima, magari sollevandola solo di un paio di metri rispetto a quello che hai, capito, senza esagerare. Almeno 2-3 metri deve essere più alto l'antenna, perché c'ho quei palazzi a fianco a me, quello giallo e l'altro che mi superano di 3 metri, hai capito? E mi tappano tutto. Fa avanti Giovanni che senti Antonello, ma lui non ce la fa a sentirti. Fai un passaggio Giovanni. Ascolta, è la parte elettrica dove ce l'hai collegata, all'accendisigari o direttamente alla batteria? Magari è una questione di, anche di schermatura, magari passa vicino a qualche parte elettrica, è per quello che senti i rumori, capito? Magari lo sistemerai meglio poi e vedrai che già non li senti più. Capito, sì, ma sicuramente me lo guarderò lì qualche tutorial, magari su YouTube già trovo qualcosa. Sì, inserendo il modello della macchina, anche se penso di averlo già individuato, perché l'ho visto una volta, stavo cercando la scatola dei fusibili e nella mia macchina ce ne sono due, ce n'è uno dentro il cofano e uno dentro la macchina, perché dovevo mettere un dispositivo collegato e avevo visto che c'era tutta la serie di fili con una specie di tappo, capito, tagliato su misura, praticamente passano lì e forse con una sonda elettrica riesco a passare i due cavi, quello rosso e quello nero, capito, già penso che non sia difficile, ho capito, meglio così, dai, così non ci perdo troppo tempo, importante farlo bene l'impianto, perché se no poi succede che si stacca qualcosa mentre stai usando tutto e non è molto simpatico. L'impianto va benissimo, va tranquillo. Giovanni, ho capito, aspetta che c'è qualcun altro che vuole entrare, avanti sul 10. Guarda, l'impianto l'ho fatto qui, l'ho fatto nelle mie macchine, ho usato capo da 2,5, ho usato con la batteria diretto con fusibile del 16 ampere. La porta fusibili tu dici? Ho messo il fusibile vicino alla batteria, nel positivo, però anche da 2,5 ho messo io direttamente. Ho da 2,5, sì, ma ne ho di quello rosso e nero, anche di quello. E poi se sono che macchinai, io c'ho proprio dove c'è la pompa dell'ABS, dove c'è vicino al cambio, c'è tutta la pompa dei fili che va a tre fusibili, io ho stato lì, questa è la pedaliera che lo fa passare. Ho capito, sì, no, io ce l'ho sulla Dacia Sandero, ho capito, e quindi penso che passi tranquillamente, perché ho visto già qualche altro cavo uscire da dentro la macchina che va verso il motore, vicino alla scatola fusibili, quindi da lì dovrei riuscire a passare. Ti prego. Solo una volta. Tu sei già? Io sto. Ho fatto un prezzo, sì, posso dire radio, Basta. Sì Gianni, la radio è molto bassa, il segnale è buono ma la radio è bassa. Comunque c'è Giovanni, Antonello, Cristian, Gianni che è entrato adesso e sta sollevando un po' la radio. Gianni, guarda, va bene. Adesso sei tu. Gianni, adesso andava bene. Sì, un attimo che mi si è staccato il... Eccolo là, è qualcosa infatti che non andava, c'era, perché era basso di radio, capito? Infatti anch'io ho fatto fatica, sentivo il segnale forte però non sentivo nessuno poi sotto. Vabbè, io lo sento, diciamo, in radio sono a sacro cuore io, dove c'è Matagliati, per me lo sento lì, lo sento benino. Cristian, guarda se senti Giovanni, lo stesso anche lui in macchina mi ha detto. Io davanti Giovanni se mi senti. Allora, ma che pechino, abbastanza. Ovviamente ho sbagliato, ho toccato al buio, ero sdraiato e ho toccato al buio la mano al posto di trovare il buio. E a Gianni, adesso già è a posto, infatti mi sembrava strano, ho detto, adesso è come sempre, forte la radio e chiara. Tu hai messo l'antenna tua o... Allora io avevo un telescopico a tre sezioni e praticamente ne ho aggiunto di ferro zingato, ne ho aggiunto un altro telescopico, cioè non era telescopico ma l'ho fatto diventare io, perché ci ho fatto i fori, ho saldato i dadi e quindi, ed è un ferro zingato da 3 mm, quindi abbastanza robusto, bello, è praticamente un tubo da 2,5 metri che ho aggiunto già a quello che avevo, quindi io sopra al tetto sono quasi 3 metri dal tettuccio, poi dal piano del tetto grande sono oltre 5 metri, più gli 8 metri di antenna. anche ho fatto così, ho messo la base. Antonello, ci sei ancora? Eia, sono qua, sono qua. L'altro giorno sono andato a buccarmi il braccio, sono andato a buccarmi. Alle 7:30 di mattina, ragazzi. Non è male, non mi ha fatto niente. Hai fatto il vaccino oggi? No, quanti ieri l'ho fatto. Ho capito. Qua in zona dove abita Luca, da, per intenderci. No, no, sono andato alle 7:30 del mattino lì a Rizzito, senza prenotazione, senza nulla. Ho parlato con quei guasti che hanno assunto, quelli della vigilanza Vigipol. Hai capito? Una mi ha detto, dice, no, se ne può anche andare a casa, c'è troppa gente qui prenotata stamattina. Mi sono guardato intorno, ho detto io, la verità è tutta, a me non vedo nessuno. Dopo un'oretta, ho aspettato verso le 9, ho detto guarda che i prenotati qua sono solamente 4, ho detto come la mettiamo adesso, gli ho detto. Allora dice venite qui, firmate il foglio e così vi facciamo il vaccino. Ho detto mi sembra la cosa detto, giusta, gli ho detto. Perché a me se l'ho preso per il fondo gli ho detto non mi piace per niente. Gli ho detto forse vede qualcuno qua che sia, gli ho detto che c'era una prenotazione. Io penso di no. Siamo tutti senza prenotazione. Sì, già lo vedo. Allora gli ho detto i prenotati quando devono venire vengono, ho detto e si fanno il vaccino. Adesso pensi a noi, gli ho detto. E se ne è fotta. È pagata per quello, gli ho detto. No, comunque qualcuno senza prenotazione lo prendono, anche io ero andato a accompagnare mia moglie il 31, l'ultimo giorno dell'anno, e praticamente io la prenotazione ce l'avevo il 19 di gennaio, 20 giorni dopo circa, dai. E invece visto che ero lì non c'era nessuno, ho detto ma lo posso fare il vaccino, e quando è prenotato lì? Ho detto il 19, no venga già lo può fare, c'era poca gente, sono entrato e l'ho fatto anch'io, capito, per cui loro se vogliono fanno entrare anche quelli che non sono prenotati, perché qualche buco c'è sempre, capito? C'è gente che si prenota e poi non si presenta, ce n'è tanta gente così, poi cancellano la prenotazione, ne rifanno un'altra, a voglia ce n'è. Ah, lo sai quanto ce n'erano alle 9:30 in fila indiana a Gherizzetto? Tu immaginati che hanno aperto il portone grande, il primo, non il secondo, quello di solito dove si entra per fare anche le visite mediche. Allora, il portone prima, quello 100 metri prima l'ha aperto, quello grande. Hanno messo pit stop per i tamponi. C'era una fila, partiva da lì, arrivava fino a Pilo, quello che fa le serrande d'alluminio. Figurati tu, quante c'erano tutti in fila. Infatti hanno soppresso il tram, lì da uno non passa più, perché se passa il tram, sai quante ne raschiano in quelle macchine. Ho capito. Gianni, ci sei? Niente, vai Giovanni, ci sei ancora in ascolto. Cristian? Io dimmi, io sono me, adesso sono tutto a casa, guarda. Cristian, dove sei? Sempre zona Sacro Cuore? Guarda, mi porto l'assisa, guarda. Ho capito, sì, c'è ancora Giovanni, Antonello, è entrato Gianni, poi forse l'hanno chiamato, si è spostato. Niente, io lo stesso devo uscire alle 7:30, ancora c'ho una mezz'oretta qua e posso sventiare, diciamo, un pochettino alla radio, come si dice. Vai Antonè. Sventiare alla radio. Se siamo sventiati così, figurati alla radio. Ohia. Se continuiamo così siamo messi bene anche a Trittaria. Adesso fa vendi i politici. Prima hanno fatto Mattarella, oggi tu sembravano tutti i bambini il primo giorno di scuola, sembravano, ho visto il filmato, tutti applaudendo, poi adesso stavo, verrai, oggi che non domani mattina, fanno come i forconi fanno la mattina, senza farvari, verrai che fanno cadere il governo, te lo dico io. Io sono entrato, ciao. Ciao, ma stai scendo male, Vigia, sei pupo un bel. Sono cupo? Sì, cupo, sì. Un saluto. saluto la buonanima a Pomponio, la buonanima è tratta. Come stai? È ora che entravi qualche volta. Marco, scusate l'ingresso a gamba tesa, ma sto mangiando e voglio salutare Pomponio che non sento da un'infinità. Chi mi ha chiamato? Christian? Cappa del cappa. Eia. Va bene, riprendete pure. Già, sei un po' inciarinato, Cioè, prima quando eri liscio sul 40 uscivi bene. Adesso sei come tra il saturo e il cupo. Prova a dargli una scuzzulata ai potenziometri, ai trimmer. È un bel cuppa, è tutto tipo pentola già. Qualcosa devi aver toccato. Dai che c'ho il piatto fumante, riprendi Carlo. Scusa Carlo, allora dai ci sentiamo Marco, alle prossime. Tantissimo tempo. Sì Gianni, adesso l'ultimo passaggio è proprio effetto pentola. Guarda a vedere adesso. Adesso vai meglio. Forse l'ha troppo alta la rana. No, lo so, ma già, adesso vai bene, ma poco fa è tutto. A che bip è venuto la strano? Tutto un colpo. Ciao Marco, comunque mi hai sentito, è ben entrato. Vai a mangiare, vai, poi già rientri, così almeno ti fai una ciaramedata. Avanti Carlo. È bello avere il piatto fumante così come Marco, così ti siedi e mangi. Io invece ancora ne avrò, sono le 7, sì, ancora alle 8:30 a cenare. Va bene. Gianni, fai un passaggio più lungo a vedere se hai sistemato il tutto lì. Sì, ho alzato, però per il volume del microfono, probabilmente è quello dentro qua. Sì, adesso infatti va meglio, capito, c'è ancora Christian che rilanciamo e poi Giovanni. Allora un bel cupo poi come andiamo, è stranissimo, proprio, attenzione, si lubrifica un pochettino. Guarda adesso come va, adesso cupo solo. Adesso va bene così, lascia così. Metti l'ATAC. E allora lascia così, dai. Poi se non attacco è troppo forte, dai. Ciao Pisa, ciao Gianni. Mi hai sentito? Ho sentito meglio le altre volte, ma molto molto molto meglio. Mi hai sentito? Ma io mi devo rendere conto se sto uscendo bene o male. Adesso dice che sto uscendo bene. Sì, sta migliorando, pian pianino sta migliorando. Ma ho sentito molto, ma molto meglio. Sì, perché ne ho mille di apparizio. Ma intanto non lo devo rivedere. Fa la differenza questo. Adesso ho sentito Giovanni. Allora ho inteso. Adesso c'è la tempo, solo che ho una messa a massa. Se dare uno arriva a me. Se si avvicina al microfono lo sento, se no niente da fare. Figurati tu a Giovanni. L'altro giorno quando stava provando Franco, usciva meglio. Perché aveva un apparecchio diverso, sicuramente stavo usando il Mila, la lampada amplificata. Giovanni, vieni, ti compro un bel 3000, Superstar 3009, via, 15 watt l'uscita e sei tranquillo, se no ti pigliava un bel lignaretto, eccetera, eccetera. C'è una ventola che è silenziosa, ma comare un pochettino, ogni tanto devo mettere il CRCIC da sopra. Mettete le belle grossi, da un kilowatt. Non ci sentiamo più. Cosa ne fai ormai del lignano? Non ne fai più niente. Ce l'ho io la 500 qua, l'ho sintonizzato, non lo sto neanche usando. Ci sono solo la mandolina, andare a pigliare per il finale e cambiarglielo. Guarda, basta che 5 watt, ne so che già truppi forse. Avatica. Se voleva intervenire Gianni, vai già. Ehi, ho detto, ce l'hai bruciato il finale. Un finale l'ho bruciato io e basta, ma per colpa mia, non è che... Capito? C'avevo uno spezzone in corto, facciamo, gli ho messo lo spezzone nella incotta, uno di quelli con la legge 213, poi non sai quel piede di Fusano, per carità, anche se fai i cavetti nuovi con la legge 58, a forza di attacca, se ne vanno in cotto da soli, devi stare sempre facendo spezzoni. Ho capito. Avete piedi buoni, comprate roba buona, pagate cara, la roba non c'è buona e basta. Lo so, bisogna telefonare fuori, farselo dire, c'è bisogno di dire da internet, solo che io con quella carta che c'ho non posso dire un accidente. E se poco a poco dovessi prendermi la posto qui mi si bolle in galera, hai capito? Quindi per il momento non posso dire a Tokyo niente, nulla, manco finanziario posso fare. Purtroppo, finché non cambiano la legge. Ripeto da Carlo. Niente, io me li sono presi un po' di PL come si deve, non quelli che hanno la plastica bianca, ma hanno una sorta di plastica più dura, non so se o è bachelite o qualcosa di più solido, insomma. E sono, diciamo, con l'adattatore, se dovessi usare il cavo quello sottile, oppure levi l'adattatore e ci metti l'RG213 che è più grosso, però li avevo ordinati da internet, perché qua da Fusaro o GBC trovi quella plastichetta, capito? E non è che sia tanto buona quella roba lì. Lo so, e il fatto che non posso pagarli in contanti, perché Torino c'ha solo, vuole solo contanti, vuole. Posso non ne ha. L'altro giorno sono entrato, non si poteva manco entrare, ci poteva passare solamente una persona per volta dentro quel negozio, da tutte le scatole che c'erano, a destra e a sinistra. Quel negozio è diventato un mondezzaio, cosa gli costa adesso assumersi un ragazzo, qualcosa del genere, in modo che gli metta si riempie i scaffali vuoti, svuota e pulisca in terra, perché sarà minimo 10 anni che non passa manco la scopa in terra, è tutto nero. Hai ragione Antonio, è così. Io ogni tanto ci passo, ma tutte le volte c'è da mettersi le mani in testa, perché è tutta una serie di scatole una sull'altra, cioè a lui gli arriva la merce, i corrieri gliela lasciano lì e lui non la tocca, poi arriva altra merce e la mettono una sull'altra e non c'è più spazio di niente. Prima, quando c'aveva quell'altro ragazzo che lo aiutava, andavi, vedevi un po' di bancone libero, esposizione di vari spinotti, eccetera. Adesso no, non c'è un buco libero, è tutto pieno. Lui con la barba sempre svogliato, non si è messo ancora il POS, quindi pagamento solo in contanti. E secondo me sta aspettando a finire, andarsene in pensione, poi magari vende tutto. Non so se il locale sia suo, perché lì c'è una vita, mi sa. Non è così, Antone? C'è un bel po', c'è lui. Mi sa che sta aspettando di andare in pensione, vende tutto il locale, tutto quello che c'è dentro, ma lì ci vuole minimo 4 mesi solo a sistemare tutta la merce, e a pulire in terra ci vuole minimo la pulire vapor, ci vuole lì, per carità, guarda. Vuole cambiare tutto, se lui quel negozio gli cambia tutti gli scaffali, cambia come sono messi, esce un buon boy, a meno che non ho, da lì ti compra, si prende un locale grande ed è a posto, perché è l'unico modo per poter lavorare bene, se no è così fregato, cosa lo tiene a fare così, un casino, tutte le scatole aperte, non si capisce, ma fa un culo, se non per dire non c'è davanti al balcone, cosa da dire, basta che apra la porta a qualcuno lui, così senza fare rumore, viene pigliato la cosa che trova dalla scatola e si tira a buscia. Tonino è sempre stato così, capito? Perché il locale già è anche grande, quel locale, perché dietro c'ha il retrobottega che insomma lo spazio c'è, e che la scaffalatura lui l'ha gestita male, le vetrine le ha tutte coperte, non si vede più niente, tutto scatoloni di merce che secondo me neanche lui sa di avere, secondo cosa gli chiedi ti dice che deve arrivare, magari ce l'ha invece e che non si ricorda dove l'ha messa. A volte vai lì a cercare del cavo e ti dice che non ce l'ha, qualcuno ci va e invece misteriosamente questo cavo esce fuori, non se ne capisce niente da Tonino che intenzioni ha di se lo vuole mettere a posto bene quel negozio, chissà quanto avrebbe guadagnato, capito? Perché ho visto che Fusaro tiene tutto ordinato, tu vai eccetera e c'è lo spazio e tutto quanto, invece lui è un tugurio, sembra, più che un negozio. Io me ne sono accorto, infatti ogni volta che vado mi viene l'ispirazione, bello così, vuoi vedere anche lui come adesso in queste condizioni, da quando è morta la moglie si è trascurato, non lo so, però secondo me la vedono di andarsene lui, capito? L'ha pigliata proprio male lui, che si è morta la moglie, è cambiato totalmente, è cambiato, vabbè, vedrà cosa fare, quando vedrà che non ci va più nessuno, già sono venuto d'accordo, cosa vuoi ti dica, avanti già, già ne è sparito, Giovanni le piglia tu. Sì, le poche volte che sono andato anch'io ho pensato, questo fa tanta di quella roba, non è neanche lui lo sa cosa c'è. Adesso non sento più, c'è stare che lì, anche qua. Non ti senti più, vero? Due, tre, prova, senti, cambio. Cristian, riprendi. Tutti sfaliti. Oh Antone, mi si era cambiato il canale a me, ero andato nel 9. Ah, allora, tu quello sentivo il cazzo, sentivo l'abbattimento tuo, sentivo queste scariche strane. Perché mi è venuto prurito alla guancia, no? E col microfono mi sono grattato e ho cambiato canale senza accorgermi. Figurati. Che c'ha i tasti non in alto questo microfono, ma ce li ha proprio dove parli, vicino sul frontale, capito? Esatto, come quello. Ce l'ho le vocali e io i tasti di così, nel frontale ce l'ho. Proprio dove c'è il microfono ci sono i pulsantini e quando tocchi nel fianchetto fa la up down, ti cambia canale, fa un sacco di funzioni in quello piccolino cinese. Io adesso esco e poi casomai ci sentiamo dalla macchina, perché devo uscire a fare una commissione e mi chiedono la cortesia di andare a comprare una cosa a casa e quindi mi tocca uscire, non ne avevo voglia. Nel caso ci sentiamo più tardi. Ciao Antonello, Gianni se ci sei ancora, Cristian e Giovanni, se attacco dalla macchina magari ci sentiamo da là, se no più tardi. Ciao a tutti, grazie del QSO. Ciao Carlo, ci sentiamo dopo, anche io faccio un po' di quel Rix che devo fare una cosettina, già detto dopo. Ciao Carlo, buon tutto, Luca Flipper, ci sei? Luca Flipper. Ci sei? Mi senti? Cappa, dimmi. Oh, basta, ci sei. Ah, mi senti poco, mi senti? Sì. Cappa, vieni avanti che devo chiudere perché stanno guardando il festival. No, niente, a posto, ciao stazionale, ciao a tu. Ehi, dai, ciao, ci sentiamo.